Un divago, percorsi ondosi attraverso la letteratura, le arti e la cultura. Un programma ideato e condotto da Max Ponte. Bentornati a Don Divago su Radio Val d'Arno e Radio Prima, quindi fra Italia e Belgio. Vi ricordiamo che le nostre puntate sono disponibili in rete sul nostro sito ondivago.blogspot.com e che potete scriverci e intervenire nella pagina di Facebook dedicata o all'indirizzo email ondivagoradio@gmail.com. Questo numero è consacrato all'America Latina, quindi terra in piena crescita, non solo economica ma anche culturale. Davanti ad un'Europa che pare spenta e arida, priva di idee, l'America Latina ci riporta una vitalità e rapporti umani che il vecchio continente pare aver perso. I forti sentimenti, i forti ideali, i grandi spazi, la memoria di spaventose tragedie e dittature, l'eredità coloniale. Da un lato diseguaglianze ancora da superare e dall'altro nuove potenze economiche in cui i progressi democratici e civili sono notevoli. L'Italia ha enormi interessi in America Latina, per i milioni di cittadini di origine italiana, soprattutto in Argentina, e per le industrie come Fiat ed Eni che vi sono impiantate. Questo rende il rapporto fra l'Italia e l'America Latina un legame complesso, quindi si tratta di una terra altra, ma anche per certi versi un ritorno sui passi degli italiani che l'hanno percorsa. Ondivago intraprende un breve periplo culturale attraverso la letteratura, la fotografia, l'arte contemporanea. Non dimentichiamo la poesia, intervallando il percorso con ritmi che daranno ulteriori sfumature a questa puntata. La nostra prima tappa è di assoluto rilievo letterario. Ondivago ha incontrato Luis Sepúlveda, protagonista di alcuni eventi a Torino, dove ha presentato anche il suo ultimo libro, Ritratto di gruppo con assenza. I nostri microfoni si sono intrattenuti poi con Daniel Morzinski, fotografo argentino, che oltre ad aver ritratto l'amico Sepúlveda, ha immortalato i grandi della letteratura sudamericana, partendo da Borges. Ma non abbiamo trascurato l'arte contemporanea. Ad Artissima, infatti, abbiamo parlato con un giovane artista cileno, Patrick Hamilton, che ci ha descritto il suo lavoro e la galleria González y González. Infine, il nostro forte legame con la poesia ci ha indotto a chiedere a Velia Lechugarrey, poetessa cubana che vive in Piemonte, di leggere una sua lirica proprio per noi. Voy de la Latina al lavapiés, que voy de la Latina al lavapiés, voy de la Latina al lavapiés, que voy de la Latina al lavapiés, voy de la Latina al lavapiés, que voy de la Latina al lavapiés. Aquí queda un pueblito en medio de la ciudad, aquí queda un pueblito en medio de la ciudad, con el alquiler subiendo la cosa se va a acabar. Voy de la Latina al lavapiés, que voy de la Latina al lavapiés. Voy de la Latina al lavapiés, que voy de la Latina al lavapiés. Voy de la Latina al lavapiés, que voy de la Latina. Luis Sepúlveda, come recita la fascetta che cinge il suo libro, ha venduto 6 milioni di copie in Italia. Ciò significa che un italiano su 10 almeno ha un suo libro in casa. Il successo arriva negli anni 90 circa, almeno nel nostro paese, con Il vecchio che leggeva romanzi d'amore. Il romanzo, scoperto dai francesi delle edizioni Metellier, è stato un vero bestseller e meritato, fondato su una esperienza vissuta dall'autore, quindi breve, ricco, un libro intenso, nato fra gli indios della foresta. Successivamente Sepúlveda ha inanellato altri successi legati alla Patagonia, Patagonia Express, Il mondo alla fine del mondo, dove ritroviamo anche il suo impegno contro la dittatura, quindi a favore dei diritti civili, il rispetto dell'ambiente, temi che sono ricorrenti nei suoi libri. ricordiamo storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, da cui è stato tratto il famoso cartone animato. L'ultimo libro si intitola Ritratto di gruppo con assenza. Ha un'impronta diaristica e autobiografica molto forte e una vena nostalgica per quelle figure scomparse dalla vita dell'autore. È molto meno romanzo di quello che ci si può attendere e pare più una raccolta di annotazioni. Non mi sento di annoverare il libro fra le migliori opere di Sepúlveda, tuttavia fornisce informazioni utili agli studiosi e ai lettori che vogliono capire meglio il suo percorso. Ondivago ha incontrato Luis Sepúlveda alla presentazione della mostra Luis Sepúlveda nel cuore della letteratura latinoamericana, che ha raccolto le fotografie di Daniel Morzinski. La mostra si è tenuta a Torino, presso la sala espositiva della libreria Piemonte Libri, un'esposizione a cura di Assemblea Teatro. Luis Sepúlveda, prima di riprendere a firmare i libri, si è rivolto agli astanti, fra cui Ondivago, descrivendo le esperienze di viaggio e il suo rapporto tutto particolare con l'amico fratello Osvaldo Soriano, di cui conserva la memoria, la cara memoria. Ondivago non ha rinunciato a farsi spazio poi fra gli accaniti lettori e ha allungato il suo microfono all'autore. Abbiamo cominciato un viaggio insieme con l'idea di fare un libro di testo e fotografia. Abbiamo cominciato un viaggio per la Patagonia e la Tierra del Fuoco. L'idea iniziale era due mesi possibilmente, se il tempo è buono, possiamo visitare una gran parte del territorio patagonico e lasciamo la Tierra del Fuoco per un secondo viaggio. Siamo arrivati per cominciare il viaggio alla città di Buenos Aires, naturalmente. Ho un ricordo molto caro, molto emozionato di questo viaggio e dell'arrivo a Buenos Aires, perché a Buenos Aires mi aspettava. Io sono arrivato due giorni avanti di Daniel e a Buenos Aires mi aspettava mio caro, mio carissimo fratello Osvaldo Soriano. E un giorno avanti dell'arrivo di Daniel ho mangiato insieme con Soriano in un ristorante molto tipico di Buenos Aires che si chiama Edelweiss. Ci abbiamo ripetuto una vecchia cerimonia di noi, che era quando Soriano abitava a Parigi, anche io abitavo a Parigi. Avevamo sempre una cerimonia di mangiare insieme e dopo, no, io ti accompagno fino alla tua casa, no? Quando arrivavamo alla casa di Soriano diceva, no, io ti accompagno fino alla tua casa. E così facevamo un lungo passeggio per Parigi parlando. Abbiamo fatto quasi lo stesso, no? Soriano stava, la sua vita, no, aveva avuto una malattia, già aveva lasciato di fumare, era totalmente proibito di fumare, ma tutti i giorni si comprava un sigaro Habano e non lo fumava, sino che lo mangiava lentamente. Bevere, solamente poteva bevere un piccolo bicchiere di vino alla ora di mangiare, ma per non tradire la nostra cerimonia di amici, sempre siamo andati a un bar, ordinavamo due whisky del peggiore whisky argentino, Old Smuggler. Io ho bevuto il mio whisky, Soriano un'acqua minerale, e in un momento determinato io le diceva, Soriano, posso bevermi il tuo whisky? Ma Soriano diceva, va a cominciare sempre a beversi il mio whisky, va bene, toma. Parlavamo, andavamo a molto bari, facevamo lo stesso, due whisky, Old Smuggler e acqua minerale, e le diceva, Soriano, posso bevermi il tuo whisky? Ma che ti passa? Sempre si beve il mio whisky. Ma. E questa notte abbiamo stato, non so, in 5-6 diversi confiterie, bari di Buenos Aires. E finalmente ya, mi ha accompagnato alla porta della casa, che è la casa dei genitori di Daniele, dove io stavo. E gli ho detto, bene, domani arriva Daniele, partiamo alla Patagonia. Mi ha detto, benissimo, quando tornai ci vediamo, mangiamo insieme. Io mi sono andato all'appartamento dei genitori di Daniele, nel piso nel 5, no? Quinto, nel 5, la 5, 5 pianta. Gli è andato al balcone a guardare il mio amico, no? E per la strada Santa Fe, e visto a Osvaldo che camminava, e l'uomo del chiosco di giornale le salutava, ciao Soriano, ti volevo bene, ciao Soriano, come stai? Continua sempre così Soriano. E Soriano rispondeva, era molto timido. E all'arrivare all'angolo di Santa Fe con la calle Corrientes si è incrociato un gato nero. Normale, un gato nero. No, non c'era nero, un gato lingera, come si dice in Buenos Aires, un gato povero, un gato vagabondo. E Soriano si è inclinato per accarezzare questo gatto. E in questo momento di un cinema vicino era salito un gruppo di gente, il film era finito e la figura del mio amico Osvaldo Soriano è scomparsa, no? Questa è stata la ultima volta che ho visto vivo a mio carissimo fratello, a mio carissimo amico, no? E all'altro giorno veramente è arrivato Daniel e noi abbiamo cominciato un viaggio al sud del mondo, no? E Soriano ha cominciato un viaggio al sud della mia anima, dove restano per sempre. Tantissima gente interessante che raccontava non la sua storia personale, raccontavano la storia della Patagonia, no? La storia del vecchio tren, del Patagonia Express, raccontavano la storia dell'esforzo, del lavoro, di lo duro che significa abitare nella Patagonia, essere un abitante della Patagonia, la storia dell'immigrazione, di gente arrivata di tutto il mondo per cercando una possibilità di vita, no? E abbiamo fatto buonamente solo 100 km in questi 2 mesi di viaggio, no? Parlando con la gente. Come si sente a segnare tutti questi libri? Bene, mi sento benissimo. È sempre un piacere o diventa? No, sempre un grande piacere. Sempre un grande piacere perché è una forma di contatto con il lettore, no? Con la carta? Con la carta, sì, chiaro. Come si trova a Torino? Come sempre? Bene, sempre bene, bene, bene, bene. Ma farsi fare una dedica da un autore, farsi dedicare un libro, quale significato ha? In fondo l'autore non ci conosce. Come può dedicarci una sua opera? Perché lo si fa? Per dar maggiore valore al libro? Aumentarne la sacralità? Per trasformarlo in una tela? O perché è una consuetudine? Ma un libro firmato è come un capo firmato? Oppure un modo per disattivare il libro stesso? Ci potete rispondere inviandoci il vostro parere al nostro indirizzo email ondivagoradio@gmail.com. Abbiamo poi ascoltato Daniel Morzinski, noto come fotografo degli scrittori e dei più grandi scrittori del mondo, scrittori sudamericani ma anche scrittori europei. Quindi fra i suoi ritratti ritroviamo quelli di García Márquez, anche di Jorge Amado. Abbiamo condotto in francese l'intervista perché Morzinski è un francese d'adozione. Vi invitiamo a visitare il suo sito, che ritrovate linkato al nostro blog, per scoprire le sue immagini. Adesso lasciamo la parola a Daniel Morzinski. Vous avez commencé avec qui? Alors, c'est incroyable parce que figure-toi que mon premier portrait a été Jorge Luis Borges. Et comme tu sais, il a écrit un conte qui est devenu un livre qui s'appelle l'Aleph. Et l'Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Et comme par hasard, c'était aussi ma première lettre de cette cartographie que j'essaye de dessiner chaque jour. Et voilà, c'est une cartographie qui est certes partielle, incomplète. J'essaie pas de photographier tout le monde, parce que sinon, plutôt, je ferais une guide téléphonique. Mais j'essaye quand même d'écrire chaque jour une page et qui me permettent aussi de faire de nouvelles rencontres. Et pourquoi c'est Sepúlveda? Vous avez une amitié avec lui, je pense. Oui, absolument. C'est pas la réponse à pourquoi, c'est plutôt un besoin. C'est le résultat d'une amitié, d'une fraternité. Et j'ai la chance d'être présent dans tout ce qu'il fait. Et lui, il fait partie de tout ce que j'ai fait. On a voyagé énormément ensemble en Patagonie, en Terre de Feu, en Russie, et partout dans le monde. Et voilà, c'est quelque chose de naturel, voilà. Oui, c'est un lien que vous avez avec lui. Absolument. Mais des fois, j'oublie que c'est l'écrivain, parce que c'est un compagnon de voyage. Et souvent, je fais pas des photos des situations qui sont formidables, parce que c'est comme la famille. Et très souvent, on oublie de photographier ses enfants et sa propre famille, parce que on a marre, on photographie toute la journée, et quand on s'échappe, on pense pas à la photo. Mais on prépare un livre ensemble et qui va être le résultat des trois voyages qu'on a fait et en Patagonie, en Terre de Feu, côté chilien et côté argentin, parce que lui, il est chilien, je suis argentin, et il y a une certaine fausse rivalité entre l'Argentine et le Chili, et nous voulons, en plus de faire ces livres ensemble, défendre l'idée que les frontières sont totalement arbitraires et qu'on peut contribuer dans un livre à créer des complicités entre un Chilien et un Argentin, surtout dans un territoire où on ne sait pas quelle est la partie chilienne et quelle est la partie argentine. Yo tengo mis esquinitas donde me gusta estar. Yo tengo mis esquinitas donde voy a disfrutar. Pero la esquinita chula es donde yo te voy a trobar. Voy de la Latina al Lavapiés, que voy de la Latina al Lavapiés. Voy de la Latina al Lavapiés, que voy de la Latina al Lavapiés. Voy de la Latina al Lavapiés, que voy de la Latina al Lavapiés. Voy de la Latina al Lavapiés, que voy de la Latina al Lavapiés. Yo me marcho al extranjero, yo me voy pa' tribunal. Allá hay mujeres bonitas, pero me cuesta llegar. Voy de la Latina al tribunal, que voy de la Latina al tribunal. Voy de la Latina al tribunal, que voy de la Latina al tribunal. Voy de la Latina al tribunal, que voy de la Latina al tribunal. Voy de la Latina al tribunal, que voy de la Latina al tribunal. En el 2 de mayo, guapa, yo te vendo el bacalao. En el 2 de mayo, guapa, yo te vendo el bacalao. Si viene la policía, volvemos a cruzar Callao. Voy de tribunal al Lavapiés, que voy de tribunal al Lavapiés. Voy de tribunal al Lavapiés, que voy de tribunal al Lavapiés. Voy de tribunal al Lavapiés, que voy de tribunal al Lavapiés. Voy de tribunal al Lavapiés, que voy de tribunal al Lavapiés. te despojo, te cortejo. No tengo miedo de perderme entre tus besos. De hasta cuando, de hasta siempre sé. Contigo, nena, resuelvo mis problemas. Te veo y lloro, tengo miedo en decirte quiero. El amor bohemio en Lavapiés. Voy de la Latina al Lavapiés, que voy de la Latina al Lavapiés. Voy de la Latina al Lavapiés, que voy de la Latina al Lavapiés. Voy de la Latina al Lavapiés, que voy de la Latina al Lavapiés. Voy della Latina Lavapiés, che voy della Latina Lavapiés. Ad Artissima, un divago, ha intercettato un artista latinoamericano. Si chiama Patrick Hamilton e la sua opera è visibile nel nostro blog con un semplice click. Consiste in un mandala, cioè un disegno circolare sul pavimento, fatto con una successione di macete piegati e accostati a raggiera. La vitalità dell'America Latina si esprime anche attraverso l'arte contemporanea, dove sembra prevalere ancora un senso di pienezza e accumulo contro quel pallido vuoto dei musei europei. Gabriel Orozco, artista messicano, sembra rispondere a questa analisi, e Orozco è uno dei maggiori esponenti dell'arte contemporanea del Latino America. Ma ora lasciamo la parola al suo collega cileno, Patrick Hamilton. Questo è un lavoro che si chiama mandala, sì, che tiene come tre referenze. La prima è alla utilizzazione dell'oggetto quotidiano per fare un lavoro che riflessiona, che allegorizza sulla violenza. Questo è un elemento che si utilizza, il machete, un elemento che si utilizza in campagna, no? Per fare lavoro in campagna, ma anche è un elemento che comportano la violenza come insieme, si dice, no? Sì? Anche un lavoro che si relaziona con la scultura minimalista per l'uso del suolo, come si dice? Del suolo. E dopo in la polizia in Latinoamerica, in Cile in particolare, utilizzano quando catturano gruppi di violenza o qualcosa, la evidenza la ponono nel suolo, no? Entonces questo lavoro è una citazione, si dice, di tutto questo elemento per parlare di... L'autore di chi è? Di Patrick Hamilton si chiama, sì. È cileno. Sì. Quanti anni ha? 35. Quindi un giovane. Sì. Sì. E questa è una galleria cilena che, bueno, è la prima feria, che fa, perché ha inaugurato in aprile. Ondivago ha deciso di terminare con la poesia, a cui è fortemente legato. Quindi di terminare con una lirica della poetessa cubana Velia Lechugarrey. Velia è una poetessa che da anni risiede in Piemonte e ha mantenuto un legame fortissimo con la sua madre patria e con la sua isola, Cuba. Questa lirica, che è una sua opera, è una vera e propria dichiarazione. Io amo quell'isola, quella che il poeta definì una lunga lucertola verde con occhi di pietra e acqua, che corteggia abbracciando le increspate onde bagnate di sole. E la lucertola innamorata ondeggia nelle acque delle Antille. Sul fondo le sirene rovistano tesori abbandonati dalla storia di conquista. Io amo quell'isola dove sono nata, dove ho lasciato sonagli mossi dalla risacca di amori dimenticati. Pomeriggi di sogni a risarcire il tempo perduto, danzando con le correnti fra madrepore, coralli e pesciolini d'argento. Io amo quell'isola, mi sono innamorata di lei, iguana ghindata de squame d'aurore, soffice per restare a galla, a coda di caimano che alza per colpire il nemico dall'altra sponda del mare. Piange lacrime di coccodrillo, dentro ride, con denti di madreperla. Amo quell'isola di sabbia dorata, di povertà e di ricchezza, di bianchi neri mulatti, fra tartarughe e sargazzi. Ondivago è giunto al termine del suo viaggio latino. I brani musicali sono del gruppo La Mala Razza e sono Creative Commons, quindi ritrovate il loro album su internet. La sigla contiene delle note di Kevin MacLeod. Intanto cogliamo l'occasione per darvi notizia del prossimo Poetry Slam, quindi della prossima gara poetica di Natale, organizzata da Poesia Totale in collaborazione con Ondivago. Si tratta di una gara pubblica che questa volta si svolgerà alla radio. I poeti si possono iscrivere per essere selezionati e anche i giudici si possono iscrivere per essere sorteggiati. La gara si svolgerà sulle nostre onde, quindi, ma vi rimandiamo al nostro sito che è ondivago.blogspot.com, dove troverete tutti i particolari. Vi salutiamo e vi diamo il nostro saluto latino per questa puntata. A presto con Ondivago. Ondivago, parcours ondoyant à travers la littérature, les arts et la culture. Un programme conçu et présenté par Max Pont. Info, ondivago.blogspot.com. Email, ondivagoradio@gmail.com.